Professore Mariano Welber insegna come docente di paleografia e archivistica all'Università degli Studi di Trento, laureato nel 1971 a Milano sotto la guida di Guido Giuseppe Pilanovic, con una tesi molto interessante sulla biblioteca manoscritti incunaboli di Giovanni Hindebach, un lavoro anche molto utile alla storia trentina del tardo medioevo e del Rinascimento. Professore Welber è anche laureato, e come mi ha detto, il primo maschio in conservazione dei beni culturali. Prego di prendere la parola per sua relazione. Saltando tutte le formalità, passo immediatamente alla relazione. Il tema che mi era stato assegnato riguardava l'attività letteraria, il percorso intellettuale e l'attività letteraria di Johannes Hindebach, argomento nel quale mi sono trovato assolutamente perso data la quantità di elementi disponibili. Ho cercato comunque nei limiti della buona volontà umana di stringere quel tanto che conosco in poche pagine, cercherò di essere poco noioso. L'attività letteraria di Johannes Hindebach, che fino alla biografia curata da Hoffmann Wellenhoff è stata sopravvalutata tanto in quantità che in qualità, si riduce a quanto è possibile sapere oggi a poca cosa. Se anzi per attività letteraria intendiamo un processo che dà origine a prodotti finiti, come è nella tradizione dei letterati professionisti, Johannes Hindebach è destinato a tutt'oggi a rimanere escluso dalla cerchia degli autori. L'unica opera edita è la continuazione della Historia Australis di Enea Silvio Piccolomini, apparsa nel 1761-62 in una raccolta di curiosità erudite curata da Adamo Francesco Collar. Più che la motivata stroncatura che accompagna l'edizione, interessa però lo stato del testo. Delle 110 colonne, quasi una trentina è in forma di abbozzo o di promemoria. C'è da scegliere. La reazione soggettiva può oscillare tra il fastidio, pari a quello di chi legge gli abbozzi saviani delle 120 giornate di Sodoma, il rimpianto. Johannes Hindebach non è un narratore, ma è un diarista minuto e prezioso, ed il sospiro di sollievo. Onestamente, a giudicare dal livello del testo finito, non c'è molto da rimpiangere se si pensa che con lo sviluppo delle parti abbozzate e dell'intero progetto la continuazione hindebachiana avrebbe potuto coprire più o meno un anno di cronaca ogni 100 pagine in foglio per circa 30 anni. Vien subito in mente, per la contiguità fra i protagonisti, un velenoso giudizio di Enea Silvio Piccolomini su Tommaso Ebendorfer von Haselbach, erudito commentatore e volonteroso cronista, compositore di sermoni, rappresentante dell'università viennese, con Enea Silvio al seguito, al Concilio di Basilea, stimato dallo Hindebach e soltanto parroco quando il Piccolomini era già Pio II, bollato dal senese come commentatore prolisso e inconcludente. Per 22 anni aveva letto il solo primo capitolo di Isaia. Quem scribere historias non inutiles aiunt, cuius ego doctrinam laudarem nisi viginti duos annos, Isaiae primum capitulum legisset neque aduc ad calcem venisset. Come rilevò a suo tempo Hoffmann Wellenhoff, non è vero che in biblioteche ed archivi giacciano inedite numerose opere di Johannes Hindebach. La genealogia a cui fa riferimento Aschbach nella sua storia dell'Università di Vienna, ad esempio, si riduce davvero, a quanto sappiamo, ad un corpus di scarne e incoerenti annotazioni sparse lungo i calendari di alcuni libri liturgici. Per esaurire il materiale edito si dovrebbe però far menzione di quella che Padre Bonelli intitolò Collectanea Igneudeus, pubblicando a suo genio parte della capsa 69 dell'archivio principesco vescovile di Trento. Intervento datato, partigiano e troppo disinvolto dal punto di vista filologico. E qui non possono bastare né la benevola commiserazione di Sperges e Collar, né il frizzo del Piccolomini, né tutte le polemiche sul caso Simonino accumulatesi fino all'altro ieri in 200 anni. Se della continuazione interbacchiana non è disponibile l'autografo, la capsa 69 dell'archivio principesco vescovile di Trento è ancora pressoché intatta. Nella sua composizione mostra con chiarezza come Johannes Hinderbach operasse in termini assolutamente pionieristici per l'anno 1475 con l'intento di fare non tanto buona prosa o buona poesia, ma efficace propaganda a mezzo stampa. Decine e decine di pagine raccolte in questa capsa appaiono bistrattate come solo un moderno correttore di bozze sa fare. Ed è quindi da rivedere non il caso Simonino in sé, cioè tutto quel che seguì sul piano del fatto e del diritto al ritrovamento del piccolo cadavere, bensì il procedimento specifico, trentino e interbacchiano, che ha travasato il fatto di cronaca e la sua traduzione monumentale in quella che da McLuhan in poi definiamo era e civiltà gutenbergiana. Se la continuatio era rimasta a bozzo e comunque era pensata per la sola diffusione manoscritta, certo non fu lo stesso delle prose e dei carmi della capsa 69, raccolti in un momento in cui l'urgenza della cronaca, l'erudizione dei letterati fin troppo disponibili allo scoop, l'opportunità di costruire un immaginario urbano collettivo, la presenza delle tecnologie più progredite venivano di fatto a collidere. Quanto alla diffusione dalla capacità di presa dell'immagine di città collegialmente costruita dopo il 1475, basti pensare che a ridosso della battaglia di Calliano del 10 agosto 1487, un anno solo dopo la morte di Hinderbach, il cronista svevo Burcardo di Anvil, elencando le città del Tirolo, identifica senz'altro Trento come il teatro dell'infanticidio rituale e che nei preliminari della stessa guerra veneto-tirolese i signori d'Arco suggerivano ai Gonzaga, per gabbare le guardie veneziane di frontiera, di far travestire da pellegrini devoti al beato Simone i mercenari e i tecnici d'artiglieria di cui chiedevano l'invio. E molte sono in questa capsa 69 le pagine dovute al solo Hinderbach, autore di cattive composizioni ritmiche, di interi uffici liturgici, di epistole celebrative, di resoconti, ma soprattutto curatore instancabile a mo' di Sisifo di un progetto editoriale tanto definitivo nelle intenzioni quanto irrealizzabile nella pratica. Lo stesso indirizzo, capace di saturare sia le attese culturali che la disponibilità finanziaria del mercato, avrebbe consigliato Johannes Hinderbach a Biondo Flavio, nel privato delle sue annotazioni in margine all'Italia illustrata, alla Roma instaurata, alla Roma triunfas. Perché tante opere, tanti instant book sull'Italia e su Roma quando l'oggetto è unico? Ergo, hic merito venirent inserendi ut in unum volumen comprehenderentur. Qui enim urbem non vidit, neque eius vetustatem, vel Italia reliquiam vidisse censendus est, aut existimandus. Ut eum, qui totum corpus viderit, caput autem eius corporis non viderit. Et ii qui nunc librum, piunc librum abuerint, alium forte abere non possint. Huic tamen operi poste aliud maius ac perfectius opus superadidit, quod Roman triumphantem intitulavit. Sane et tanto viro dignum opus, quibus duobus, isto scilicet et illo, omniaque Roma olim tempore florentis rei publice et nunc pontificibus sub acta Romanis abuit, et abet adunquem exponuntur, uno re vera magis opere et nomine complectenda. È una pugnalata all'immagine di Roma papale, tanto deliberata quanto serena, perché Johannes ha visto gli effetti del comportamento dei papi del suo tempo, capaci solo di riciclare i marmi venerandi per farne calcina. Pessime faciunt pontifices, cardinales et romani, qui monumenta vetusta marmorea destruunt et in calcem et comunia edificia ea redigunt, quorum auctor primus fuit Nicolaus Quintus Pontifex, alioquin laudabis et commendandus. E di Biondo Flavio, Hinderbach aveva una stima pressoché illimitata, tale non solo da fargli sobbarcare la spesa di 5 raffinati manoscritti comprendenti l'opera omnia del Forlivese, ma anche da suggerirgli una sorta di identificazione. Hinderbach in effetti si autodefinisce rerum vetustarum studiosus, quasi a conclusione del suo itinerario intellettuale, ma la stessa espressione si trova in una nota hinderbachiana sulla sepoltura di Biondo alla Racelli. Apud quam hic noster blondus, nuper humanis exemptus, quia revisionis illius semper devotus extitit, ad fores eius elegit sepeliri, cui Deus sit miseritus, quia vir bonus et rerum vetustarum simul, et historiarum scriptor et excultor maximus. Ma con questo siamo rientrati nel dominio degli inediti hinderbachiani, un dominio del tutto particolare, tanto vasto quanto inesplorato, e alla fine delle fatiche del paleografo frammentario. A proposito, bisognerà innanzitutto notare che quanto riuscirò qui ad accennare in margine ad una ricerca iniziata quasi 20 anni fa si riferisce soltanto alle note che Hinderbach appose in margine a quelli dei suoi libri che sono tuttora noti e disponibili. Trento ne accoglie circa 130 pezzi, molti miscellanei, alcuni divisi in più unità bibliografiche fra manoscritti ed incunaboli, e di essi almeno un centinaio debbono la loro esistenza al vescovo antiquario. Siano o non siano il nucleo di una biblioteca vescovile o comunque destinata ad un pubblico, essi non ricostruiscono tutto l'itinerario intellettuale di Johannes Hinderbach. Non sono tutti i libri che egli lesse e postillò nel suo periodo trentino, canonicato compreso. Alcuni sono andati irrimediabilmente perduti a Trento, come mostrano l'inventario seguito alla morte di Giorgio Hack, postillato dallo Hinderbach, e lo stesso catalogo Gentilotti Bonelli, tradotto 50 anni fa dalla Taruggi Secchi. Altri, e non sappiamo e non vogliamo sapere quanti né quali, andarono perduti a Vienna nella sedizione del 1462 di cui narra la continuazione. Forse quei popolani rivoltosi, appartenenti ad un ceto abusivo e grossolano di falegnami, macellai e conciapelli, istintivamente odiati da Hinderbach per la pretesa inaudita e indecente di farsi soggetti di storia, operarono una specie di selezione, poiché non andarono perduti né gli appunti padovani né i libri portati da Parigi da Enrico di Langenstein e giunti alla casa viennese di Johannes in un baule tarlato. Hos libros omnes in uno volumine ac libro vetustissimo et in antiquissima littera inter alios libros et tractatus reperimus in domo nostra in quadam testudine capsa vermibus corrosa. Qui ut credimus fuerunt oli infelicis memoriae magistri Enrici de Assia, doctoris sacre pagine, excellentissimi atque famosissimi. Avunculi nostri maioris, et fratis avie nostre materne, qui forte e undem ex studio parisiensi et monasterio e iusden sancti Dionisi comodatum ad donatum. Qui, post eius obitum, devenit ad manus magistri Hermanni de Traisa, eius nepoti, qui fut avunculus minor et doctor medicine. Post eius obitum ii et ali eius libri ad manus magister Dietmari et per illus obitum ad nostras manus quem de novo ligare et expoliri facere et multa exemplaria per artem impressoriam facere intendimus domino concedente et per varia loca i desti monasteriis et bibliotechis at studiis generalibus ut non sic lateat et in pulveribus delitescat set omnibus in lumine pateat. Si noti il contrasto, che secondo me è assolutamente caratteristico, tra l'apprezzamento incondizionato della nuovissima tecnologia tipografica e l'intenzione tutta medievale di affidare all'ars impressoria il De Celesti Hierarchia dello Pseudo Dionigi ed al fine di diffonderlo nei centri del sapere tipici del Medioevo, monasteri, biblioteche, università. La postilla di Hinderbach, nella versione riportata già dal Gentilotti Bonelli, iste libere et alter ui conformis fui tollim recolende memorie magistri Enrici Langenstein de Hassia, avuncoli nostri ac professori sacre teologie, ac primi rectori studi viennensis tempore Alberti Pii, ducis Austriae fundatoris e iusdem, et de manu e iusdem in marginibus correctus et emendatus pro autabui ex relazione magistri Tome de Hasselbach, appare irrimediabilmente sciapa. Anche se collega a Johannes lo Hasebach, quello del commento più che ventennale al solo primo capitolo di Isaia. Rimane infatti sullo sfondo, e solo la lettura sistematica delle note hinderbachiane consente di reperirlo, un quadro di Translatio Studiorum fatta in casa, di parentela improntata non alla carne ma alla pedagogia, che lo Hinderbach stabilisce con precisione nella postilla ripetuta più volte dopo l'edizione del catalogo Gentilotti Bonelli e finalmente interpretata in modo corretto dal professor Sternad. Enrico di Langenstein fuit ex genere meo materno, ut abavia mea que erat sororis eius filia de villa Langenstein, nobili patre, quamquam ad modum paupere genitus. Questo è il pezzo edito già nel Settecento, noto e ripetuto, ma vediamo il resto. Et ob multitudinem filiorum tempore sterilitatis a patria exulare coactus, ad Parisius studendi causa secontulit, ubi in magna paupertate utiple riqueali summam teologiae doctrinam catedranque magistrale adeptus, ad preces et instantiam alberti ducis Austriae profundanda scola vienensi poste a conductus, qui allium post se de genere nostro magistrum hermannum de Traisa oriundum in eodem vienensi studiae nutrivit, qui et ipse ad doctoractum usque pervenit, et allium item ille post se nostri generis magistrum dietmarum educavit, et eidem ac fratri suo germano domum quam odie possidemus et alia bona quam plurima vineta quedam ex testamento reliquit, cuius ego, eccetera eccetera. Un altro progetto editoriale. Certo è che sulla base del fondo librario rimasto e delle relative postille inderbachiane è pressoché impossibile ricostruire gli anni della formazione, quelli dello studio viennese in arti. Di qui non conosceremo probabilmente mai l'origine del pesante latino di Johannes, delle sue conoscenze di etimologia, prosodia, metrica, del canone di auctores che mostra di prediligere, del concetto di storiografia che lo ispira, dell'insegnamento che lo ha reso, a suo dire, utriusque lingue facundus, delle basi del suo orientamento in materia di dogmatica, di dottrina politica, di rapporti gerarchici. Ed altrettanto certo è che il fondo trentino, opportunamente integrato con i pezzi indicati dal Gentilotti Bonelli e tuttora reperibili, dà nell'insieme l'idea di un lettore dotato sì di una formazione pregressa, non eccelsa ma consolidata, tale che può essere richiamata alla memoria con facilità, ma quasi del tutto privo di notizie di prima mano dell'umanesimo italiano. E fino alla fine, nonostante le molte conoscenze acquisite tramite la frequentazione e la lettura, i grandi autori rimangono per Johannes Hinderbach degli estranei. Sa, per aver sentito dire, di Coluccio e di Guarino. Conosce Pomponio Leto ed il Platina per lettera ed in margine all'affare Simonino. Conosce ovviamente Enea Silvio Piccolomini di persona e biondo attraverso le opere, ma per il resto si muove con difficoltà. E da prima vista questi stessi libri indicano che il vero impatto di Hinderbach con l'umanesimo avviene proprio negli anni trentini e dopo il problematico curriculum di studi. Quantomeno molte delle note hinderbachiane sembrano quelle di chi affronta un testo per la prima volta. Col senno di poi, ma forse si tratta soltanto di coincidenze, possiamo anche individuare nei fatti clamorosi del 1475 una sorta di cesura. Prima di questa data le postille hanno l'aria gratuita ed olimpica dell'itinerario intellettuale retto dalla sola curiosità. Poi si fanno più rade, più funzionali, più solenni, eccezione fatta per l'amatissimo Speculum di Vincenzo di Beauvais, un incolabolo in tre tomi il cui commento a margine meriterebbe uno studio a parte. Una volta precisati questi limiti, le postille inderbachiane diventano una traccia affascinante, sulla quale si possono perdere anni ed anni alla ricerca della pepita che riscatti i costosi insuccessi. Il percorso di un antiquario germanico sulle orme della nuova cultura italiana, un osservatorio inedito da cui guardare alla recezione della nuova cultura in terra austriaca e germanica, alle dinamiche quotidiane sottese ai circoli toscani e romani dell'umanesimo, ai rapporti reali fra papato ed impero, alla vita culturale e sociale della città e del territorio di Trento prima di Bernardo Clesch, del Pincio e dei conseguenti stereotipi. L'approccio di Johannes Hinderbach ai diversi testi ha sempre lo stesso ritmo, lettura e scansione. Consiglia al biondo e mette in atto una sua revisione della Roma instaurata. Recupero della tradizione, se c'è e si evidenzia, raccolta e risistemazione delle conoscenze intorno al nuovo nucleo ed infine trasferimento con armi e bagagli su un altro libro. Sono processi che possono durare molti anni, come nel caso delle vite dei santi della Chiesa Trentina, o anche solo pochi mesi, come nel caso della cronografia di Tolomeo, che risulta prima ignota e poi subito utilizzata. L'obiettivo è evidentemente enciclopedico. e la scienza principe in questa prospettiva, pur con il limite ideologico dell'intreccio tra fede e politica, nella versione sancita dal Concilio di Basilea e dalla scelta filoasburgica e filoimperiale di Johannes Hinderbach, resta l'etimologia, l'ipotesi di continuità e di certezza che viene suggerita dall'analogia fra i nomina. Se un personaggio della leggenda aurea si chiama Vigilio, se un monte delle regioni descritte da Tolomeo si chiama Bondino, se un condottiero viennese si chiama De Grai, se un cammeo del tesoro vescovile raffigura una donna con le trecce, la prima ipotesi inderbachiana è sempre quella della continuità. Ogni Vigilio può essere il santo vescovo e martire tridentino. Il lontano Bondino può essere il Bondone, dove i medici ed i praticoni vanno a raccogliere erbe salutifere o letali. La matrona romana del cameo sembra pettinata More Nostrarum Teotonicarum. Il condottiero De Grai, della sedizione viennese del 62, dovrebbe discendere fino a prova contraria dagli antichi elleni. Quod nomen agrai, sid est grecis traere autumant, quodque abilis originem ferre ducant, quae omnia more grecorum nostra in re terminari dinoscuntur. E così un suo contemporaneo Truxes, Heidenricus Drugeses, quod nomen Drusis Romanis tractum opinor, nam multa nostre lingue nomina latinis et ipsis Romanis conformi assumpt. Et abilis tracta credenda, nam et Romuli et Corneli et Scevole et Curzi et Luci et Tizi corrupta reperiuntur. Per una sorta di nemesi erudita, Johannes dovrà accettare da Raffaele Zovenzoni la freddura paretimologica secondo la quale il suo cognome, Inderbach, avrebbe ricordato niente meno che il ritorno di Bacco dalle Indie. Accanto all'etimologia opera il criterio della verosimiglianza, per cui le novità vengono misurate innanzitutto con l'origine acclarata, poi con le affermazioni degli autori esercepti ed infine con testimonianze autoptiche e reperti archeologici. Ciò che non regge è favola. Così i cognomi degli artigiani viennesi ribelli, ma forse c'è una connotazione classista perché i rivoltosi non appartengono ad uno stand riconosciuto, non hanno dignità di antico. Questi cognomi vogliono semplicemente dire legnaiolo o macellaio. Le notizie sull'infanzia di Maria Vergine debbono essere corrette con un occhio alla decenza. Istud non est verisimile quod ministraverit sacerdotibus. Immo credendum est fuisse clausam in aliqua templi parte e die noctuque vacasse oracioni, lecioni et contemplacioni, nunquam versatam fuisse in publico, unde aliqua suspicio deo ridi potuisset. La tradizione romana legata alla simbologia delle porte del Tempio di Giano fa i conti con le trovai. Neronis numum reperi, qui exaltera parte abeba templum iani una dum taxat porta clausa, et fenestrella ad latus cancellata. Uiusmo diego numum argenteum in civitate tergestina reperi, proprio utic dicitur signatum circunferentia, litteris ianum clusit, pace terramarique parta. Le notizie sulle monete e di loro raccoglitori possono anche infiammare la fantasia dell'antiquario, che vorrebbe verificare addirittura de visu il fascino di Cleopatra. Moneta Cleopatre, ius marci Antoni anagne percussa utic dicit, pulcrum atque opere precium esset, eius imaginem vultunque intueri, sique inter veteres reperiretur. Quere apud Lelium Vallense, arum copiosissimus vel inter numismata moderni pontificis quo nemo iis copiosior abundantiorque. Le sorgenti presso il Tempio di Giano sono una fictio Ovidii, mentre in realtà non vi è che l'uscita di certe acque sotterranee canalizzate, come ben sa chi come lui ha davvero percorso Roma in lungo ed in largo. Un quadro di Roma bellissima, sfortunata e insidiosa. Luoghi comuni che non meriterebbero sottolineatura se non avessimo la certezza che l'immagine del Caput Mundi ha un preciso ruolo nella cultura inderbachiana. Johannes Inderbach visitò la città in almeno due occasioni, prima fra il giubileo del 1450 e l'incoronazione imperiale di Federico III del 1452, e fu davvero una visita a tappeto, chiesa dopo chiesa e palazzo dopo palazzo, con la notazione dei lavori in corso e delle smanie di villeggiatura romana di molti cardinali. E poi, nel 1465 e 66, con l'urgenza di farsi confermare vescovo di Trento, ma ebbe, nelle more degli affari di curia, tutto il tempo di dedicarsi alla ricognizione antiquaria e all'acquisto di libri. L'incoronazione di Federico III, che fu in effetti l'ultima cerimonia di questo genere svoltasi a Roma, è per Johannes Schinderbach l'occasione per riflettere sul destino della capitale del mondo, come già sappiamo. Una città mirabile per antichità, sottoposta all'assalto dei nuovi ricchi da un lato, riqualificata, per così dire, dai suontuosi cortei imperiali, sempre pronta però alla piccola frode da bancarella che accompagnava anche allora il massimo dei pellegrinaggi. E siamo un po' contenti che anche Johannes Schinderbach, abituato a fare i suoi acquisti presso un certo libraio fiorentino di Campo dei Fiori, sia rimasto vittima, come egli stesso ammette, di un patacaro, poiché una volta nella promozione turistica succedevano davvero queste cose a danno degli ignoranti. Principes non nisi privata peregrinazione habita accedunt prout tempore jubilei de plerisque visum est. Una d'un taxat solemplins ac triumphalis nostro evo visa est in urbe ingressio divi Friderici III imperatoris. Altero post indultum anno. Nell'antichità remota le cose erano assai diverse. Olim enim reges et principes nationum aut obsides aut militaturi vel in triumphi speciem vel etiam amicice et federis gratia adducti. E nella città eterna provinciarum delicie affluebant, mentre gli odierni abitanti appaiono inertes, squalidi, mendici e falsari di professione. Certis libellis, quos publice venales exponunt, in quibus mille nugarum figmenta componunt, prout in uno dictorum libellorum qui in manus meas venit annotavi. L'interesse delle note inderbachiane, a mio avviso, nasce proprio di qui, cioè dal fatto che esse forniscono, nella forma del soliloquio e della battuta a parte, e perciò con tutti i dubbi sulla verosimiglianza, il retroscena degli eventi, ed aprono quindi la strada, una volta decifrate, allo studioso che voglia, per dirla nei termini di Foucault, destrutturare i documenti. Può sembrare clamoroso, ad esempio, il fatto innegabile che Hinderbach dedicasse ai santi della Chiesa Trentina tanto tempo e tante ricerche. Se si pensa che al primo impatto con la Series Episcoporum Tridentinorum, redatta sotto il suo predecessore Giorgio Hack, egli confondeva il beato Adelpreto con Adelpreto di Ramenstein. Ma la disinvolta correzione dimostra la capacità di Johannes di aggiornarsi continuamente, senza lasciarsi sopraffare dai modelli. Si è detto dei volumi di appunti dalle lezioni padovane di diritto, ma anche questo periodo della formazione ha bisogno di approfondimenti. È fuori di dubbio che Hinderbach nutrisse per Antonio Roselli una sorta di venerazione, tale da suggerire l'origine della famiglia del monarca Utriusco Iuris dal borgo di Roselle celebrato da Dio. Del vecchio Roselli e di Giacomo Zocchi nei 10 anni di studio a Padova, che forse non gli permisero invece di sentire Angelo di Castro. Ma con ciò non concordano né la forma dei manoscritti inderbachiani del tempo di Padova, uno di questi attribuito al Gentilotti Bonelli e dalla Tarugi Secchi non è suo ma di Jacopo Walzer, le note marginali e la disposizione del testo fanno pensare al progetto di una lettura da condurre in proprio, né il contenuto datato. Questi manoscritti iniziano nel 1440, quando Hinderbach era ancora studente di diritto a Vienna, e comprendono anche lezioni di Prosdocimo Conti, predecessore del Roselli ed esonerato dall'incarico per incapacità nel 1427, né la forma del foglio volante della Repetitio databile al 1447. Una nota marginale alla Repetitio avverte infatti: si vis potes obnitere totum illud quod sepitur et continuare illud quod est infra in duotegima rica seguentis columne. È un promemoria per se stesso, per un lettore, un copista, un tipografo. In ogni caso, questo foglio superstite fa pensare ad un più ampio scritto, destinato ad essere conservato e consumato anche fuori dall'occasione per la quale era stato predisposto. Già che non sembra verosimile che proprio nel giorno della Repetitio il candidato prevedesse di omettere, come la nota consiglia, le righe contenenti l'elogio dei maestri. Anche il modello Piccolomini è ridimensionato dalla lettura puntuale delle note inderbachiane. Enea Silvio, preceptor Germaniae, vi compare come maestro del dire in termini esclusivamente formali. cioè in quanto capace di dar forma latina alla Historia Australis dal trattatello De Liberorum Educazione. All'origine delle due opere c'è però pur sempre Johannes Hinderbach, nella sua presenza multiforme e pasticciona. Il trattatello pedagogico, ad esempio, ha il suo riscontro in un ruolo che Hinderbach confessa con movenze ritrose e quasi goffe, poiché si trova a chiarire un inciso di Enea Silvio Piccolomini che allude ad un aspetto fin troppo privato della difficile legazione milanese del 48-49. In mezzo alle preoccupazioni per i diritti della Casa d'Austria, Hinderbach aveva trovato il tempo di comprare per il piccolo Ladislao una palla e di accompagnarla con una dedica in versi. Dum essem eo anno mediolani, qui fuit alter post Filippi obitum, et civitas obsessa foret a Francisco Sforzi a duci premortu i genero, pilam Ladislao promunere reportavi. Utque ea cum socis puerulis luderet, et quo pacto ludendum ea esset, certis versiculis descripsi de quibus hic mentionem facit. Può essere il reimpiego di un topos persino abusato, ma è la notizia di un fatto vero. Comunque dalla certezza che molto prima delle composizioni del 1475 Hinderbach sapeva fare il poeta d'occasione, come gli avevano insegnato a Vienna. Probabilmente saranno stati versi ritmici, giacché Johannes Hinderbach non conosce altro modo di fare poesia e gli esametri leonini sono per lui il massimo dell'abilità. Di certo non è in grado di apprezzare l'aspetto quantitativo della metrica latina e pertanto corregge sia i verseggiatori affluiti intorno al caso di Simonino, Crucibus scrive Zoenzoni, per ragioni metriche Johannes Hinderbach cancella e sostituisce perché il singolare crux rispetta sia la verità storica che la morfologia latina nella quale il sostantivo crux non ha plurale, sia lo stesso Ovidio delle Metamorfosi. Con ciò non voglio dire che fosse ignaro dell'evoluzione degli studi umanitacis, anzi fin troppo attento, come quando rivendica alla propria esclusiva competenza la scoperta di certi falsi inseriti negli archivi di Casa d'Austria con formule che sanno di Innocenzo III e del Valla della Donazione. Ventum est ut archivi ducatus Austria perirentur. Ex parte cuius bet principis quatuor dun taxat personis, consigliorum ac secretorum suorum participus ac toctine e provincialibus interceteros veluti Friderici Cesari secretarius admissus fui. Qui Johannes Hinderbach vide, in casa di falsari provetti, diplomi che ne confutavano altri attribuiti a Giuliano e a Nerone. Johannes Hinderbach, ad esempio, ignora l'esistenza di Sesto Rufo, ma anche di Vitruvio, e cancella con Cornelio Nepote, sostituendolo con Tacito, dall'elenco degli storici romani elaborato da Biondo. Lo stesso atteggiamento diffidente però lo fa accorto di fronte al Somnium Scipionis, che gli viene regalato dal Tiberino, ed anche di fronte al Pronosticum de Avento Anticristi di Giovanni de Lubecca, offerto a buon prezzo dal Feliciano. La sua valutazione della cultura romana antica è sempre misurata con il metro della razionalità e il negativo della superstizione. Quanta veterum aruspicum superstitio et impietas, ut virum fortem sese ultro precipitare iuberent seu permitterent, ed aveva imparato a Padova che era di cattivo auspicio incontrare sulla propria strada un frate, una donna o un ebreo. Non ritengo importante sapere se Ladislao giocò davvero al pallone, e non mi dispero più di tanto per la perdita del poemetto didascalico dello Hinderbach, del quale sopravvivono troppi altri brutti versi. Né vorrei sapere di più sul ruolo di chaperon che Johannes si dovette accollare quando Leonora fu piantata in asso poco dopo le nozze imperiali. Tanto tutto ciò è ampiamente codificato e rimosso proprio nell'obbedienza a Pio II, un piccolo capolavoro di retorica, prodotto da quello stesso Johannes Hinderbach che nella prefazione alla continuazione si era tanto scusato. Veluti sus quidem Minerva imitabor. Smentendo tutte le sue postille, Johannes Hinderbach attribuisce al solo Enea Silvio la rapidità della carriera, la cultura umanistica, la produzione letteraria, le trattative per le nozze imperiali e persino l'educazione di Ladislao e della Germania intera, con tanto di illustri e triti paragoni. Ma così vuole la logica dei ruoli che, maldestro o accorto, Johannes ha imparato a conoscere e sa di poter enunciare a mo' di prologo. At non me preterit, uius aele apostolice vetus consuetudo, abis qui pontifici obedientiam prestituri veniunt, observata. Solent enim primum in trono sedentis novi pontificis, genus, mores et vitam, elezione santam atque diligentiam vota meritis, ac dignis et ferre laudibus. Eius vero quis emitti dignitatem, amplitudinem in anc sedem sua, maiorumque suorum meritac demon debitis reverenza devotionibus, eam reconnoscensus obedientiam profiteri, quod et nobis profitendum censuibus. E chi era in fin dei conti per Johannes Innebach e Enea Silvio, se non un formidabile parlatore in quella lingua latina tanto invidiata? Il buon Hinderbach, utriusque lingue facundus, sembra addirittura ridurre la nuova cultura umanistica a questa capacità di dar forma scorrevole e persuasiva alla testimonianza autoptica di cui ognuno sarebbe di per sé capace. Alle spalle opera ancora una volta un vissuto privato. Johannes ha visto a Roma i lavori della nuova dimora del nipote di Enea Silvio e a Corsignano i frutti della rifondazione epicolominiana. E ricorda tuttora i tempi felici in cui Enea Silvio si accompagnava a quei tedeschi bevitori che di lì a poco avrebbe disprezzato. Nella continuazione Hinderbach professa una grande ammirazione per i pochissimi principi astemi ed altrettanta commiserazione per i rivoltosi ubriaconi. Conrado, cive prestanti, ornato, ecclesie sancti petri Rome canonico et eusdem ecclesie olium temporibus Nicolai vicario, interpotatores vini policiani atque corsignani, interalia optimi, ac bonus socius egregio, nunc guttis podagraque presso, atque pio pontifici plurimum caro, cui erat socius Ernestus Natega, intercuriales nostri temporis omnium pinguissimus atque periucundus. E nel corpo di questa stessa nota Hinderbach ritorna, nel suo modo personale e problematico, al presente, a quella città di Trento alla quale avrebbe dato le basi di un immaginario collettivo capace di superare infine la cerchia delle mura e di coagulare un territorio intorno alle reliquie dei fondatori e dei testimoni più recenti. Qui nuper diem suum Salzburgi ultramontes obit, cuius anima in pace requiescat. Nostra la città e la chiesa e la biblioteca in un continuo sforzo di adattarsi e di rendere al meglio delle possibilità del momento, anche rinnegando il passato. I libri di Hinderbach passano da Praga a Mödling o da Parigi a Vienna a Trento, dall'uso privato al pubblico, dalla devozione alla consultazione. Le esigenze della civiltà delle forme riducono l'autobiografia ai soli eventi della storia devozionale. Dalla copia della Madonna di San Luca e dal braccio di San Vigilio messo finalmente in piedi, fino ai martiri anauniesi e dal beato Simone, e fanno escludere la cura di un principato ai limiti del collasso. Ma Johannes Hinderbach, e qui si rende difficile la sua classificazione, è prima di tutto cosciente del fatto che, narrati bene o male, gli eventi umani hanno la loro giustificazione nel numero e nella dignità delle persone coinvolte. Così è delle testimonianze su Simonino, e prima del ritrovamento delle reliquie dei martiri anauniesi e prima ancora della laurea padovana che, meritata o meno, ha avuto proprio un gran pubblico. Obmittit hic Antonium de Rosellis Aretinum, noster in eodem studio preceptor et in signorum doctoratus in presenza divi Federici III Imperatoris Augusti, Ladislaique Regis Hungarorum et Alberti Archiducis Austria Germani Cesaris Aliorum per multorum antistitum comitum baronum procerum et nobilium totiusque curie Cesare tum illic existentium ac Roma pro sua coronazione transeuntis collatorem anno salutis millesimo quattrocentesimo quinquagesimo secundo decima quarta mensis annuari in ecclesia cattedrali omnibus illic iuris pontifici ac civilis doctoribus in suis caputiis et abitibus presentibus et astantibus ad numerum circiter quinquaginta Fantino episcopo Patavino studi cancellario presidente quo actu nullus unquam insignor habitus cui tot et tanti principes ac nobiles viri doctoresque interfuissent. Johannes Hinderbach. Ringraziando il professor Verba per la sua interessantissima e anche illustrativa relazione sugli pezzi manoscritti di mano di Giovanni Hinderbach, con le moltissime note autografe molto utili se sono studiate come ha fatto professor Velba. Io sono fortunato che una gran parte di questo materiale è adesso unito a Trento nella biblioteca comunale e una piccola parte anche in Castello al museo provinciale. È molto importante di studiare queste note per venire a un'immagine completa del vescovo Giovanni Hindenbach, che veramente era un rerum vetustarum studiosus, come ha scritto personalmente. Adesso facciamo una breve pausa, 15 minuti, e poi cominciamo con la seconda parte, con la relazione del professor Chemelli e del dottore Knepp.